Fujiko Factory, your musical playground. We waited all through the year for the day to appear when we could be together in harmony. You know the time will come. Con Christmas Time di Bryan Adams. Questa ora e mezzo in mia compagnia, io sono Benny e voi ascoltatori mi direte: ma Benny, ma perché Natale? Perché ancora Natale? Va bene, è il 23 di dicembre, fra poco è la vigilia, fra poco è Natale, però è un mese, alcuni addirittura mi diranno sono due mesi che ascoltiamo brani di Natale, basta, li conosciamo, non c'è bisogno. E invece io dico c'è bisogno perché durante queste feste di Natale il mio obiettivo per Radio Città Fujiko è di portarvi delle perle vecchie e nuove chiaramente sia di grandi artisti, ma anche di personaggi dimenticati o comunque di brani che sono stati ingiustamente ignorati o dimenticati perché magari sono troppo trash per essere considerati degni della storia della musica natalizia. Invece io dico no, questo è il momento di ricordare tutti coloro che sono caduti in nome del buon spirito natalizio. Abbiamo iniziato con un grande artista, chiaramente, Bryan Adams, e vi assicuro che durante questa puntata andrà peggio di così, ma andrà anche più o meno meglio, insomma ci sarà Elton John, ci saranno tanti altri classici che non vi spoilerò, ma comunque vi assicuro che se state giocando a Wamageddon non perderete, perché non ci sarà in questo episodio Last Christmas degli Wham, ad esempio, non ci sarà Mariah Carey, e quindi dovete sopportarmi per quest'ora e mezzo in un cammino alla riscoperta del Natale in musica. Iniziamo subito con il prossimo brano, un altro grande classico, e poi sveleremo anche il perché di questo classico. Il brano è di José Feliciano e si chiama Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom. José Feliciano ci augura Feliz Navidad in questa puntata di Fujiko Factory un po' atipica sul Natale. In realtà abbiamo iniziato con dei brani ancora abbastanza tranquilli, diciamo. Questo poi, vabbè, è proprio un classico natalizio. Addirittura questo brano, che ormai è uno standard da anni per le canzoni delle festività, è stato incluso dall'American Society of Composers, Authors e Publishers nella lista delle 25 canzoni di Natale più ascoltate e registrate di tutto il mondo. Tanti sono stati gli artisti che l'hanno anche riproposta come cover, dagli Chicago a Michael Bublé, chiaramente, ma anche per esempio Albano e Romina. Ecco, questa versione di Feliz Navidad di Albano e Romina devo dire che mi manca, quindi me la andrò ad ascoltare subito dopo la puntata, e perché sì, un po' mi voglio male, ma è questo il bello della puntata di oggi, in cui chiaramente partiamo anche da qualche classico, ma con motivi specifici. Infatti questa Feliz Navidad quest'anno nel 2020 ha compiuto 50 anni di carriera. È stato sicuramente il brano che ha permesso a José Feliciano di vivere di rendita, probabilmente, insomma, almeno lo spero per lui, perché a quanto pare ha scritto questa canzone in 10 minuti e l'ha portata alla gloria. Quindi quale miglior modo di festeggiare con l'ennesima canzone, un po' come fa ogni anno Mariah Carey, se non dandogli un tocco nuovo. Infatti, per festeggiare questi 50 anni, José Feliciano ha deciso di incidere una nuova versione di Feliz Navidad con 30 artisti, fra cui ad esempio Jason Mraz, Shaggy e anche Michael Bolton. Quindi tanti auguri José, tanti auguri Feliz Navidad, e io adesso però direi di passare a qualcosa di un po' più indie, un po' più vicino a noi, specialmente a me, che quest'anno veramente vi ho riproposto quest'artista in tutte le salse. Lei è Phoebe Bridgers, e però per un buon motivo, giuro, perché, ebbene sì, è anche un'esperta ormai di canzoni di Natale e di cover in generale, e questa è la sua Christmas Song. Good time. You don't have E non era la prima volta di Phoebe Bridgers qua sulle frequenze di Radio Città Fujiko, così come non era nemmeno la sua prima volta nel magico mondo delle canzoni di Natale. Eppure, notoriamente le canzoni di Natale sono associate a questo momento dell'anno estremamente felice, estremamente allegro, gioioso, e quindi le canzoni molto spesso riflettono questo tipo di atmosfera, anche perché devono essere perfette per addobbare la casa, l'albero di Natale, mettere le lucine in giro e anche per accogliere amici e parenti. Però, se vogliamo proprio essere onesti, è molto molto molto difficile rimanere felici e contenti per quasi un mese intero di fila, se iniziate come me a ascoltare le canzoni natalizie il primo di dicembre e non prima, come fanno alcune bestie di Satana che non voglio nominare, tipo la mia coinquilina. Non ho detto niente. Però se per esempio come me avete la luna in Cancro e quindi passate tutto il vostro tempo libero, almeno quando siete in solitudine, a piangere chiusi in camera, adesso la sto facendo molto più drammatica, però il succo della luna in Cancro è proprio quello, sicuramente solo canzoni natalizie allegre, felici e contenti non fanno per voi. E qui entra in gioco Phoebe Bridgers, la paladina di noi persone malinconiche, perché è risaputo ormai che la cara Phoebe Bridgers, che quest'anno ha rilasciato tra l'altro un album di successo di cui abbiamo parlato ampiamente qua a Fujiko Factory, che si chiama Punisher, non è per niente un'artista felice, contenta e tranquilla nella propria vita. Ed è proprio questo il segreto probabilmente del suo successo, oltre al fatto che chiaramente sia una bravissima artista e musicista. Quindi, cosa ha pensato di fare la Bridgers, che in realtà già da anni si cimentava in tutti questi brani, queste cover di Natale? Ha detto, ma allora intanto fammi rilasciare un album, e l'abbiamo detto, Punisher, che fra l'altro è in tantissime ormai classifiche dei migliori album dell'anno, fra cui anche la mia, devo dire, che trovate insieme alle classifiche di tanti altri redattori di Radio Città Fujiko sul nostro sito, che vi ricordo è www.radiocittafujiko.it. anzi, grazie al nostro Tabs per aver creato l'articolo e aver raccolto tutte le nostre classifiche. Ma dopo aver rilasciato Punisher ha detto, aspetta, intanto fammi rilasciare un altro EP, stavolta Copycat Killer, con le canzoni che ho presentato, o almeno alcune canzoni che ho presentato già in passato, ma in una versione nuova, in una chiave nuova, con gli archi, quindi con i violini, eccetera. Poi, non contenta, ha detto il 23 di novembre, aspetta, non è abbastanza, io voglio rilasciare un altro EP, quindi il mio terzo lavoro di questo 2020, lo chiamo If We Make It Through December, e chiaramente lo dedico a tutti coloro che come me amano le canzoni di Natale tristi, o comunque malinconiche. Questa è una raccolta di 4 brani, usciti alcuni in passato e altri nuovi, che sono per lo più cover. Ad esempio c'è la classica Have Yourself a Merry Little Christmas, e c'è anche un mashup di Silent Night e 7 O'Clock News. Poi c'è Christmas Song, che abbiamo appena ascoltato, e anche If We Make It Through December, che personalmente è una canzone che non conoscevo e che in realtà è molto molto carina, ve la consiglio. Fra l'altro questo EP vanta anche la collaborazione ad esempio di Fiona Apple, quindi altro grande nome di quest'anno, ma anche in generale della musica internazionale. E quindi anche quest'anno Phoebe Bridgers ha salvato non soltanto l'anno, in questo caso il 2020, ma il Natale proprio. Grazie Phoebe. Adesso io smetterò di nominarla almeno fino al 2021, però direi di rimanere su questa linea un po' indie, un po' sofferta, ma non troppo, perché alla fine è comunque Natale. Ascoltiamo un altro grande della musica internazionale che purtroppo ci ha lasciato di recente. Lui è Daniel Johnston e la canzone si chiama Rock Around the Christmas Tree. Yeah. Rock and roll around the Christmas tree. Everything is you and me. Rocking the night away. Rocking the night away. Gonna rock the Christmas tree. Everything is you and me. Rocking the night away. Rocking the night away. Da da da da da da da. fantastico come sempre è Daniel Johnston nella sua un po' stranezza e malinconia che l'ha caratterizzato durante tutta la vita e durante tutta la sua carriera. Lui purtroppo si è spento recentemente e io sono molto contenta che ci siano anche dei brani di Natale creati e coverizzati da lui, proprio per portare avanti questa idea che abbiamo proposto prima di ascoltare Rock Around the Christmas Tree, sul fatto che una canzone di Natale, per essere bella e per essere piacevole, non per forza deve essere allegra, felice e contenta. Però io, prima di mandare la pubblicità, vorrei ascoltare in realtà un brano italiano, perché in realtà durante questa puntata sentiremo per lo più brani in inglese, però credo che sia giusto rendere merito a chi il merito lo ha, e quindi sì, ascoltiamo anche stavolta un brano in inglese, ma che tanto inglese non è, e quindi io direi di sentire Christmas with the Yours di chiaramente Elio e le Storie Tese con il grande Mangoni. Voi rimanete qua perché, mi raccomando, dopo la pubblicità torna Fujiko Factory. I am in the room, waiting for Santa and for Claus. Suddenly by night, they will arrive. Can't you feel the typical clink, clink, clink, clink, clink? Presents for the good, cold for the bad. Rockville come and diceva mia mamma, Christmas with the yours, Easter what you want, peace between love and oasis. Christmas with the yours, Easter what you want, don't throw atomic bombs because it's Christmas time. It's Christmas time. Panettone is on the table and everybody's drinking Moscato. Go to buy a tree, but not a true tree, because otherwise it would die, die, die, die, die. Panettone is on the table, but it is another one. Infatti è quello senza canditi. Oh, Christmas with the yours, Easter what you want, peace between lighters and shadow. Christmas with the yours, Easter what you want, don't drop a topic bomb, but please that Christmas. Oh, it's Christmas. Staremo sospesi dal 20 al 28 dicembre. Fanculo le feste, i regali, i cenoni, i panettoni. Da 120 anni non ho più dei giorni vacanti. E adesso che tutti si fermano per rivedersi, noi siamo sommersi. È il lasso di tempo in cui non lavoro, mi dedico a te, mi dedico a te. Ma dirla tutta lo faccio soltanto, soltanto per me. Oddio, se mi piace vederti legare i capelli con quella matita. Se me la presti ci scrivo un racconto soltanto, soltanto per te. Staremo sospesi dal 20 al 28 dicembre. Fanculo i parenti, i regali, gli auguri agli assenti. È il lasso di tempo in cui non lavoro, mi dedico a te. Soltanto, soltanto per me. Oddio, se mi piace vederti legare i capelli con quella matita. Se me la presti ci scrivo un racconto soltanto, soltanto per te. Lo faccio per me, soltanto per te. Lo faccio per me, soltanto per te. Sospesi di Cola Pesce apre questa seconda mezz'ora di Fujiko Factory in mia compagnia. Io sono Benny e oggi, 23 dicembre, stiamo percorrendo insieme un po' di brani di Natale che in realtà diciamo che escono dalla solita tiritera di Michael Bublé, Mariah Carey, eccetera eccetera. Li conosciamo tutti quelli, quindi perché non celebrare il mese di Natale, che alla fine è dicembre per chi si ossessiona per un intero mese, come fanno alcuni, me compresa, sui brani di Natale? Perché non tirare fuori, certo, alcuni grandi classici, ma magari un po' più ignorati, non abbastanza apprezzati, insieme anche a qualche perla di trash. E in realtà Cola Pesce non è esattamente famoso per i suoi brani di Natale, e questo non era esattamente un brano di Natale, però secondo me era doveroso, se non altro, includerlo in questa playlist di oggi, perché l'avrete sentito, no? All'inizio Cola Pesce dice: staremo sospesi dal 20 al 28 dicembre. Noi in realtà staremo sospesi un po' di più, quindi fino in realtà ai primi di di gennaio e siamo un po' sospesi da tutto questo 2020, se posso dire. È stato un anno un po' irreale, un po' surreale, assurdo, non ce lo saremmo mai aspettati e adesso sta finendo. E ancora una volta Colapesce è riuscito a riassumere esattamente la sensazione di questa nostra popolazione italiana di fronte all'arrivo delle feste durante una pandemia in cui appunto siamo sospesi fra il poter fare e il poter non fare, il voler fare ma il non poter fare per non mettere a rischio chiaramente la vita dei nostri cari, e quindi ci ritroviamo a dover accettare delle soluzioni alternative senz'altro necessarie per proteggere tutti coloro che ci circondano, e rimaniamo un po' sospesi in queste feste. Sicuramente il senso del brano era un altro, almeno inizialmente, però si sa che le canzoni alla fine assumono, come tutti i testi, anche il significato che poi l'ascoltatore o comunque chi riceve il messaggio gli dà. Quindi grazie Colapesce per questo nuovo brano Natale 2020. Non ci saremmo mai aspettato, però ancora una volta ecco Colapesce che entra a far parte delle nostre vite per un motivo o per un altro. Fra l'altro gli voglio dare un grandissimo in bocca al lupo, perché veramente Colapesce è uno di quegli artisti indie indipendenti che sono riusciti a scalare la vetta della musica fino ad arrivare al mainstream, ma stavolta non in senso dispregiativo. Infatti non solo in questi ultimi tempi Colapesce ha ricevuto successi, parecchi apprezzamenti da parte del mondo musicale più grande sicuramente della nostra radio, che però è molto brava a scovare i talenti prima che diventino conosciuti al grande pubblico, questo bisogna ammetterlo. E adesso Colapesce insieme a Di Martino, dopo il loro ultimo album, si presenterà a Sanremo, che in realtà sarà a marzo quest'anno e non a febbraio, immagino a causa del Covid. Però devo dire, sono rimasta molto molto colpita da questa lista di nomi che parteciperanno a Sanremo, perché parecchi, per esempio anche la rappresentante di lista, sono nomi che noi passiamo in radio quotidianamente. Quindi un grande in bocca al lupo a tutti loro, e in questo caso chiaramente anche Colapesce e Di Martino, che ci hanno fatto compagnia in questi mesi. Un grandissimo in bocca al lupo e un abbraccione, e mi raccomando, portate alta la bandiera della nuova musica italiana, mi raccomando, perché il cantautorato c'è e continua a esistere e a resistere. E quindi grazie, davvero grazie, mi raccomando, non svalutatevi per favore, continuate a fare buona musica, perché a noi la vostra musica piace molto. Ma andiamo avanti con un altro brano, stavolta un po' più natalizio, un vero classico. Questa è Eartha Kitt con Santa Baby. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Santa baby, just slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, a 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be just as good if you check off my Christmas list. Santa baby, I want a yacht, and really that's not a lot. Been an angel all year, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa honey, one little thing I really need, the deed to a platinum mine, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa cutie, and fill my stocking with a duplex and checks. Sign your X on the line, Santa cutie, and hurry down the chimney tonight. Come and trim my Christmas tree with some decorations bought at Tiffany. I really do believe in you. Let's see if you believe in me. Boom, boom, boom, boom. Santa baby forgot to mention one little thing, a ring. I don't mean on the phone, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. Hurry tonight. La pazzesca Eartha Kitt con Santa Baby qua con noi a Fujiko Factory. Un brano sicuramente piuttosto celebre fra le canzoni di Natale, ma molto particolare perché in questa canzone Eartha Kitt tenta di sedurre Babbo Natale. Secondo me Eartha Kitt è un personaggio molto interessante, per questo l'ho voluto includere nella nostra puntata di oggi a tema natalizio. I più giovani in realtà conosceranno Eartha Kitt senza saperlo magari, perché lei ha dato voce al fantastico personaggio di Yzma nelle Follie dell'Imperatore, che è un film che ha veramente segnato la mia generazione, almeno io sono rimasta veramente segnata da questo film e lo guardo ancora quasi ogni anno. È veramente un cartone molto molto carino di Disney, e la voce di Yzma, quindi doppiata da Eartha Kitt, è veramente pazzesca. Ma Eartha ha avuto una vita molto particolare, si è spenta purtroppo nel 2008, aveva 81 anni, fra l'altro credo che sia morta proprio il giorno di Natale, coincidenza abbastanza triste in realtà. E Eartha ha avuto una vita piuttosto particolare perché era nata in una piantagione di cotone in South Carolina e poi fu spedita a New York dalla zia e addirittura arrivò a debuttare a Broadway a 18 anni. Io vi consiglio di approfondire un po' di più il suo personaggio, che è molto intrigante e interessante, e se volete vederla parlare fuori dalla vita glamour che ha avuto dopo essere riuscita a andarsene dalla piantagione, consiglio il video su YouTube che si chiama Eartha Kitt on Love and Compromise, dove appunto lei parla del suo rapporto con l'amore e con i compromessi per amore. Secondo me è veramente una figura pazzesca, super forte, da cui tutti noi possiamo imparare, specialmente noi donne, devo dire. Ma andiamo avanti, come promesso, dobbiamo secondo me abbandonare un po' i classici che abbiamo ascoltato e passare a qualcosa di un po' più trash, un po' più particolare. In realtà qualcosa che secondo me è ormai tradizione, devo dire, o comunque io voglio che diventi tradizione su Radio Città Fujiko ogni Natale, ovvero l'ascolto dei Dari. Perché se c'eravate con noi l'anno scorso durante la puntata di Natale di Lucri e Benny, abbiamo ascoltato questo brano che si chiama Vale Buon Natale. Voi direte: Benny, ma Vale esisteva già, non si chiamava così. Esatto, esatto, perché questa non è altro che una versione natalizia della celebre canzone Vale, anche molto discutibile, insomma, dei Dari, che appunto venne rimaneggiata dagli stessi per creare una versione per le feste. Quindi anche loro si sono cimentati incredibilmente in una canzone per le feste, e io ve la faccio ascoltare. Questa è Vale Buon Natale. Vale, estar haciendo. Vale, vale, vale, vale, vale, buon Natale. Cioè, come altro vorreste fare gli auguri ai vostri amici e parenti se non con questa canzone dei Dari? Veramente non ho altro da aggiungere, hanno detto tutto quello che volevo dire e pure di più. Però insomma, magari avete un po' storto il naso e vi siete chiesti: ma perché ci fai ascoltare queste cose? Mamma mia, ma noi ci aspettavamo di più da te. Va bene, va bene. Vi posso fare anche un'altra proposta. Un'altra proposta che non è esattamente sconosciuta, perlomeno non è sconosciuta per gli amanti del genere indie folk, specialmente straniero, ma lo è secondo me per quanto riguarda la musica di Natale più mainstream, più diffusa e conosciuta. Per voi ascoltatori di Fujiko Factory, ormai Sufjan Stevens non è più uno sconosciuto, anzi, ma forse non sapete che, oltre a essere un bravissimo musicista e ormai anche molto longevo, perché uno dei suoi brani più conosciuti è parte della colonna sonora di Little Miss Sunshine, che alla fine è un film dei primi 2000 o metà 2000 se non sbaglio, ma è anche un grande amante del Natale. E voi direte: vabbè, un po' come tutti noi. No, perché Sufjan Stevens, quando ama qualcosa, forse la ama un po' troppo secondo certi punti di vista. E mi spiego. Nel 2006 Sufjan Stevens ha dato alle stampe Songs for Christmas, che è un'opera composta da 5 EP che aveva registrato già fra il 2001 e il 2006, dove erano presenti sia brani originali di Natale sia le classiche canzoni riarrangiate e riproposte, anche magari quelle un po' meno conosciute, ma comunque brani classici della tradizione americana, per esempio. E poi 6 anni dopo, non contento, Stevens ha anche rilasciato Silver and Gold, che è il seguito di Songs for Christmas, in cui altri 5 EP contengono 60 brani sulla stessa scia della prima raccolta. E voi direte: ma e quindi quanti brani ci sono? Sono circa un centinaio di brani le canzoni di Sufjan Stevens dedicate al Natale, quindi sì, sicuramente è un grande appassionato del genere e del periodo, o comunque se non altro ha la capacità di essere molto prolifico in questo periodo dell'anno, a quanto pare. Quindi magari, se siete stanchi della solita musica natalizia super felice e piena di campanelli, comprate uno di questi due EP, no, in realtà no, una di queste due raccolte, e siete a posto per circa 20 anni, visto quanti brani ci sono in ognuno dei due. Quindi, without further ado, quindi senza altre presentazioni, senza dilungarci oltre, questa è una delle mie canzoni preferite di Sufjan Stevens del Natale e si chiama That Was the Worst Christmas Ever, e speriamo che non sia così per noi nel 2020. Thank you. E con Sufjan Stevens continua questa nostra classifica, che classifica non è in realtà, per Fujiko Factory, delle perle nascoste e canzoni un po' meno ascoltate nel periodo natalizio, che in alcuni casi non hanno niente di stereotipico dei brani natalizi, ma che secondo me meritano un ascolto e anche più d'uno se, come me, poi alla fine vi appassionate al genere. A tal proposito, prima della pubblicità io direi di ascoltare un altro brano dei The Killers, il loro secondo brano natalizio in realtà, che è stato rilasciato nel 2007 con lo scopo di raccogliere fondi per la Red Campaign, che è questa campagna che promuove la lotta contro l'AIDS e che vuole raccogliere appunto fondi per continuare le ricerche contro questa malattia che vengono portate avanti dal Global Fund. Una canzone totalmente in stile The Killers, quindi rimarrete sorpresi, però con un tocco natalizio, e la ascoltiamo. Santa, I've been waiting on you. That's funny, kid, because I've been coming for you. Oh, Santa, I've been killing just for fun. Well, the party's over, kid, because I got a bullet in my gun. A bullet in your what? Getting around this. Life is hard. But look at me. I turned out all right. Hey, Santa, why don't we talk about it? Work it out. Believe me, this ain't what I wanted. I love all you kids. You know that. Hell, I remember when you were just 10 years old playing out there in the desert. Just waiting for a sip of that sweet Mojave rain. In the sweet Mojave rain, the boy was on his own. Don't shoot me, Sam. Yeah. Britney Spears mi sembra decisamente l'artista adatta per continuare questo nostro viaggio musicale fra le canzoni di Natale un po' meno conosciute o ingiustamente dimenticate, ignorate. Qualcuno magari potrà dire che questa canzone di Britney Spears non vale la pena di essere ricordata, e invece sì, e invece io ve l'ho fatta ascoltare, quindi sperando che siete ancora con me, continuiamo con questo nostro percorso di ascolto musicale in vista del Natale e anche della vigilia domani di Natale. E dopo My Only Wish This Year di Britney Spears, che come tema effettivamente è un po' alla Mariah Carey, possiamo dire, vi avevo promesso qualcosa di un po' più sostanzioso, un po' più di ciccia, come dicono in Toscana, e quindi direi di andare a ripescare l'ultimo album di Andrew Birds, che è uscito digitalmente il 30 di ottobre, quindi un po' troppo presto anche per i miei gusti per quanto riguarda un album delle feste, e si chiama Hark. Abbiamo già parlato qua a Fujiko Factory, appunto criticando un po' questa uscita così improvvisa e un po' troppo anticipata per i miei gusti, ma finalmente è arrivato il momento in cui è lecito, è giusto ascoltare Andrew Birds anche in questa veste natalizia. Tra l'altro la base, il tappetino musicale che abbiamo avuto per tutta la puntata è proprio suo, è parte di questo album e si chiama Christmas is Coming. E sempre per suggerire questa uscita eccessivamente presto di un album di Natale quest'anno da parte di Andrew Bird, sicuramente la scelta migliore di brano da includere in questa carrellata di pezzi del Natale è Christmas in April. I'm wanting to hold you, keep you with me this year. You're my darling and I want you near. I'm wanting to whisper sweet words of comfort in your ear. No more sorrow and no more fear. My love, when will we know if we can meet under the mistletoe? Yeah, I'm writing a song about Christmas in April this year, so I'm not sure what to think about that. And I'm hoping these words don't ring so hollow when you hear me say Merry Christmas and Happy New Year. Upset apple cars conspiring to keep us apart. I wanted to hold you and keep you with me this year. You're my darling and I want you near. I'm hoping these words don't ring so hollow when you hear me say Merry Christmas and Happy New Year. And may the autumn winds blow away all our fear. I said Merry Christmas and Happy New Year. Thank you. cari ascoltatori di Fujiko Factory, ormai saprete che a noi ragazzi, che tutte le settimane vi portiamo nuovi pezzi, nuovi brani, nuovi album, nuove interviste, nuove cose, non sempre riusciamo a stare serie per troppo a lungo. E infatti anche questa raccolta di brani natalizi che stiamo per finire di ascoltare non poteva chiaramente rimanere seria per un'ora e mezzo di tempo. E quindi io dico, potevano mancare gli NSYNC? Se non lo sapete, nel 1998, dopo il successo del loro album di debutto, hanno ben pensato di rilasciare anche un album delle feste che si chiama Home for Christmas, ovviamente in pieno stile boy band. Probabilmente un album dimenticabile per qualcuno, ma non per me, che sono riuscita a ripescarli nonostante nel 98 io avessi solo 2 anni, quindi ci sarebbe voluta veramente una memoria di ferro a dir poco per ricordarlo questo album. Ma comunque, dove non può la memoria, arriva l'internet. E quindi questo album, che ha venduto già solo negli Stati Uniti d'America ben 2.8 milioni di copie, classificandosi come il 15° best selling Christmas or holiday album in the US dal 1991, e poi vendendo anche successivamente 4 milioni di copie in tutto il mondo, è assolutamente un must delle mie proposte musicali di oggi. E quindi ascoltiamo insieme il singolo Merry Christmas, Happy Holidays in piano stile boy band degli NSYNC. Best time of year for the family. It's a wonderful feeling. Allora, io ho una cosa importantissima da dire. Se non avete bloccato, fermato tutto quello che stavate facendo per ballare gli NSYNC durante questo pezzo, io penso che non possiamo essere amici, perché è assolutamente impossibile. Io non sono riuscita a contenermi, quindi non so come possiate fare voi, o probabilmente non l'avete fatto, io sono semplicemente malpensante. E comunque durante questo pezzo mi è anche venuto in mente che avrei voluto dirvi una cosa all'inizio, ma non ci avevo pensato, la dico adesso. Chissà quante volte ho detto durante questa puntata, oltre al solito pezzo, brano, pezzo, canzone, eccetera, Natale e natalizio. Quindi i più svegli probabilmente avranno già pensato a un giochino alcolico, ovviamente se siete sopra i 18 anni, se non guidate, mi raccomando, responsabili, specialmente appunto in questo periodo natalizio. Potete bere un'altra volta adesso. Ma mi dispiace, vedi, non averlo suggerito prima, perché poteva essere un'ottima idea, ma purtroppo ormai siamo quasi già alla fine di questa puntata pre-Natale. Ecco, qua potete bere un'altra volta. Ma andiamo avanti, smettiamo di dire queste cavolate. Io ho ballato un sacco, spero pure voi, sugli NSYNC che ci auguravano buon Natale. E adesso torniamo a fare un attimo le persone un pochino più serie, un pochino più musicalmente colte, perché bisogna comunque avere di tutto un po', secondo me, nella vita, il giusto mezzo, quindi un po' di cavolate, un po' di cose intelligenti, un po' di cose impegnate, e adesso ve lo dà Benny la cosa impegnata. Poi sembra che debba tirare fuori, non so, chissà quale pezzo classico di Chopin. No, non andiamo così a fondo oggi, ve l'assicuro. Ma il penultimo brano di oggi ve lo portano direttamente i Fleet Foxes dal 2008, dal loro primo album di debutto, che appunto li ha lanciati nel mondo della musica, con appunto questo album omonimo, Fleet Foxes, e il brano si chiama White Winter Hymnal, che non è necessariamente un brano di Natale, però ha un po' quel feeling di brano di Natale. Poi appunto cita questo White Winter, quindi il Natale bianco, innevato. E cosa molto carina, il video, che è fatto con i pupazzi di plastilina, ricorda molto un po' i film, i cartoni per adulti di Tim Burton, oppure un po' alla Wes Anderson. Quindi io purtroppo non ve li posso fare vedere come al solito, perché la radio non è ancora arrivata a così tanto, e forse è anche meglio così in realtà, perché è meglio lasciare anche qualcosa all'immaginazione. E ecco, infatti addentriamoci in questa atmosfera un po' alla storia dei fratelli Grimm, sia per i lyric che per l'atmosfera musicale, che anche per il video, che vi ripeto non potete vedere con me, ma sicuramente lo andate a vedere dopo, non ho dubbi. Adesso possiamo riprendere un po' il fiato dalla ballata di prima con gli NSYNC e goderci i Fleet Foxes. Scarves of red tied round their throats to keep their little heads dress from falling in the snow. And I turn round and there you go. And Michael, you would fall and turn the white snow red as strawberries in summertime. Ma quanto passa veloce il tempo, quanto ci si diverte, no? È incredibile, infatti noi qua ormai siamo veramente agli sgoccioli. Chiaramente, come sempre, Fujiko Factory continua fino alle 5, però io fra pochissimo vi saluto. Questa è la mia ultima puntata del 2020, da sola. In realtà domani, giovedì, tutti noi redattori di Fujiko Factory vi proporremo i nostri brani dell'anno. Però sì, oggi è la mia ultima volta da sola, prima del 2021. E quindi io vi voglio ringraziare per essere stati con me in questo 2020 un po' particolare e salutarvi con una canzone che è anche un po' un augurio. Infatti ho scelto Aurora Boreale, non a caso, perché è stata la nostra ultima intervista dal vivo del 2019, fra l'altro sempre all'interno di una puntata di Natale, e quindi ascolteremo lui proprio per augurare un buon 2021 a tutti, ma specialmente a tutti i musicisti e i lavoratori dello spettacolo che fanno tantissimo per noi ogni giorno, e un augurio a tutti loro affinché riusciamo a tornare alla normalità, alla nuova normalità, un passo alla volta e un concerto alla volta, e finalmente anche un'intervista dal vivo, face to face, alla volta. Vi ringrazio per essere stati con me, vi faccio un grandissimo augurio di buone feste e buon Natale, e ci sentiamo nel 2021. Ciao! Ero perso nella notte, poi arrivi tu, come slitta nella neve, bambin Gesù. Copri questa mia vigilia di nostalgia, ma che bella pandorona, sei solo mia. Portami nella tua stanza, il vischio dov'è? Mani sotto il tuo maglione cercano te. Io vorrei che questa notte finisse mai, scarta l'ultimo pacchetto, cos'è lo sai? Dammi il regalo più caldo che c'è, io sono io quando sono in te. Fare sessone non basta per me, io voglio passare Natalone con te. Sai che vorrei perdermi in questa follia, calendario dell'avvento è quasi magia. Preparerò il cenone solo per te, mangia questo panettone insieme a me. Pan di zenzero piccante, quanto ne vuoi? I botti di Capodanno li facciamo noi. Passa pure la tua Pasqua con chi ti va, tanto sai che per Natale io sarò qua. Regalo più caldo che c'è, io sono io quando sono in te. Fare sessone non basta per me, io voglio passare Natalone. Dammi il regalo più caldo che c'è, io sono io quando sono in te. Fare sessone Buon Natale, John. Buon Natale, Yoko. E a tutti voi, un buon Natale. Anzi, pensare con cin cin cin cin cin cin cin cin dei plin plin plin cin plin che entrano come se tipo arrivasse la slitta di Babbo Natale e poi batteria.